e una marchigiana dalla coscia lunga. Evita il buco, di fame a Sì, metà mattina sì, e sì. Per me quindi. che ce l'ho tutte le ore, cosa devo fare? Anch'io, lasciamo perdere. E noi Mi abbiamo tirano le terminato. gambe, però. Vedi, però sei molto intelligente, da qualche istante a questa parte. Per cui adesso, con tutto questo mare di intelligenza, possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nicoletta, guarda che la sigla è andata, vieni a sederti, dai che abbiamo iniziato. Vieni, vieni qua. Dai. Allora, è lì su una gamba sola, l'altra piegata con gli occhi chiusi che tenta di collegare naso e ginocchio. Vi lascio immaginare un'immagine improponibile, ma voi potrete vederla anche su Facebook fra poco. Deborah, io sto cercando di capire sì. se sono stabile ecco. o instabile. Ecco. E faccio questa specie di test, perché stabilità e instabilità è il tema di oggi. Ma soprattutto qua in studio con noi abbiamo il nostro neurologo preferito, il professor Piero Barbanti, primario neurologo al San Raffaele Pisana di Roma, così mi dà un'occhiata. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, molto volentieri, ma il problema è che noi cerchiamo sempre un centro di gravità permanente. In realtà il cervello va avanti per opposti estremismi e quindi tira da una parte e tira dall'altra, a volte non si riesce a tenere la mezzeria. Quindi la scommessa che, su cui vorremmo parlare oggi è vedere, interrogandoci dai piedi alla testa, quali siano quelle condizioni dei nostri ascoltatori per le quali a carico dei piedi, delle gambe e delle mani, per esempio, qui riguardiamo un po' il movimento, noi non ci sentiamo stabili, oscillando tra il muoverci poco, l'essere instabili, o il muoverci troppo, avere tic, piccole smanie, piccole manie. Però anche la sensibilità, noi pensiamo che il cervello sia solo movimento, in realtà sensazioni. Quanta gente consulta internet per strani formicolii, sensazioni di addormentamenti, questo è un segno ancora di instabilità. E poi salendo molto rapidamente sul cuore, le condizioni in cui abbiamo una calma piatta, quindi un eccesso di stabilità, o invece quando andiamo dalle stelle alle stalle in 12 ore con andata e ritorno garantito, nell'ambito della stessa giornata, lì è un dramma. E saliamo ultimo gradino al cervello quando invece attenzione ed emozione non rimangono stabili e pensiamo ad avere, a volte lo abbiamo, fortunatamente raramente succede, un problema vero e proprio, altre volte solo lo stress. Quindi stabilità e instabilità dalla testa ai piedi, dal cuore al cervello, soma e psiche. E se il professor Barbanti, Nicoletta, guarda te, l'altro nostro ospite, l'uomo di cuore e denari, guarda bello, i mercati, guarda Moria Longo, benvenuto intanto. Buongiorno. Potrà a tutti. Apparire bizzarro il ragionamento che ha fatto il professor Barbanti con il tema dei mercati finanziari, ma in verità anche i mercati finanziari hanno il loro indice di instabilità, si chiama VIX, che è l'indice che in realtà misura la volatilità dei mercati finanziari ed è importante per monitorare i nostri risparmi, Moria. Sì, perché più è stabile, quindi più l'indice VIX è basso, significa che è bassa la volatilità. Volatilità significa quante volte le borse salgono e scendono in maniera violenta. Le oscillazioni. Se un giorno fanno più 8, il giorno dopo fanno meno 8, il saldo finale è zero, però la volatilità VIX è molto alto. Ecco, esattamente, quindi il VIX va a misurare proprio le oscillazioni, più sono violenti. In questo periodo in realtà non è molto bassa la volatilità, perché le borse hanno questa salita, sembra quasi che fossero che siano sulle scale mobili, continuano a salire, e secondo me è proprio questo il momento in cui un attimino bisogna, se non preoccuparsi, quantomeno stare attenti. Stabilità e instabilità, due facce della stessa medaglia, riunite in un'unica puntata. Oggi a Cuore Denari su queste due parole abbiamo costruito il gioco che ci permetterà di offrirvi, come ieri, 6 biglietti per la mostra di Andy Warhol. Che è a Milano, naturalmente. Allora, come fare per avere questi biglietti? Scriveteci i vostri due punti fermi di cuore e di denari che vi danno stabilità. I 6 messaggi più belli, naturalmente, si vedranno riconoscere i biglietti. Ad esempio, per il cuore, Nicoletta? Allora, ad esempio, un punto di stabilità per il cuore possono essere gli amici, che quando sei un po' in crisi, quando sei un po' instabile, ti fanno capire che quelli che tu vedi come limiti possono diventare invece delle risorse. Oppure l'attività fisica, siamo stressati, particolarmente stanchi, ecco che l'attività fisica diventa un punto di stabilità proprio perché ci riequilibra. equilibra, come d'altronde il sonno, che certo, ti dà carica, energia, ci permette, come ha ricordato tante volte il professor Barbanti, anche di rimettere a posto la testa. I punti fermi di Denari che invece ci danno stabilità possono essere, non so, ad esempio l'impegno di pagare il mutuo per coronare il sogno di comprare una casa, quindi un impegno economico e finanziario ricorrente vi rende stabili, oppure, che ne so, il pensiero di avere, se siamo in difficoltà, un aiutino da parte di un familiare, la pensione del nonno può essere anche questo, no? Un aspetto che ci rende tranquilli, ci fa dormire sonni sereni. Il conto corrente in verde e non in rosso tranquillizza, immagino, tutti. Allora raccontatecelo. Conoscete tutti i modi per raggiungerci, sia per partecipare al nostro gioco, sia per soprattutto per fare le vostre domande, raccontarci le vostre esperienze, mettervi in relazione con Deborah e con Nico, ma soprattutto con i nostri esperti. Il professor Piero Barbanti è a vostra disposizione, così come Moria Longo, per tutta la durata di Cuore Denari. 800 24 00 24 349 238 6666 il numero per i vostri sms. Ci sono anche i social network Facebook e Twitter, e poi alla fine della diretta di oggi cosa faremo? Vi comunicheremo i nomi degli ascoltatori a cui è stato abbinato il biglietto per la mostra. Ci avete dato molto da lavorare, ma alla fine ci siamo riusciti. Esatto, sei vincitori praticamente dei premi per le foto che ci avete inviato ieri con le immagini straordinarie sull'autunno. Restate, partiamo. Salva Danaio. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di E ci sembrava assolutamente idoneo oggi pescare Franco Battiato con questa canzone. Per il tema di oggi partiamo come sempre da un fatto di cronaca. Il tema da cui si parte oggi è, come dire, solo apparentemente lontano da noi. In realtà tutti interessa come va l'economia americana, perché è una gigantesca locomotiva mondiale, anche se tra poco sarà sorpassata dalla Cina. Da settimane la borsa stelle strisce, macina record su record, e questa situazione ci ha portato a chiederci cosa c'è dietro tutta questa euforia. Per la verità lo raccontiamo spesso, c'è la banca centrale americana che offre grandi stimoli monetari. Sappiamo che l'economia statunitense è per sua natura flessibile, capace di risollevarsi anche dalle peggiori crisi, ma l'umore degli investitori non sarà un po' troppo alle stelle? Quanto potrà durare tutto questo? È davvero, Moria Longo, quella che stiamo guardando e osservando in questi giorni, una situazione sintomo di stabilità finanziaria? No, io non credo che gli eccessi siano mai sintomo di stabilità in tutti i campi. Quanto possa durare, se questa crescita di Wall Street, delle borse, poi non solo americana ma anche in Europa e in tutto il mondo, se questa crescita sia sostenibile oppure no, dipende ovviamente dalla crescita economica. Fino ad ora le borse sono cresciute perché molte banche centrali, non solo quella americana, hanno iniettato denaro sul mercato. Pensate che solo la banca americana centrale ogni mese stampa 85 miliardi di dollari che vengono ovviamente vanno a influenzare e a essere investiti in borsa e sui mercati finanziari. Il problema è capire se l'economia reale che ci sta sotto migliora oppure no, ed è quindi coerente con l'aumento di Wall Street. Ecco, i dati economici americani sono indubbiamente positivi, l'America è in crescita economica come tanti altri paesi del mondo, purtroppo non tanto in Europa, è l'unico vero fanalino di coda, e l'Italia è il fanalino dei fanalini. Però anche la crescita economica di Wall Street, che è sotto gli occhi di tutti, i dati lo dicono, in realtà dimostra che un bel po' di instabilità c'è anche in America. Perché innanzitutto la crescita economica è in gran parte stata fomentata e favorita proprio dalla crescita di Wall Street, siccome tante famiglie hanno i soldi investiti in borsa, uh-huh, più sale la borsa, tante uh-huh aziende sono quotate in borsa, più sale la borsa, più stanno meglio tutti. Il problema è che questa crescita non è stata, innanzitutto ha creato grandi disuguaglianze negli Stati Uniti. Pensate che mentre Wall Street è ai massimi, mentre l'economia americana cresce, la povertà negli Stati Uniti è ai massimi dal dopoguerra. I redditi in America sono cresciuti in maniera completamente diversa. L'1% più ricco della popolazione ha avuto un aumento del reddito dal 2008 a oggi del 41%. Il restante 99% della popolazione, quindi non si può neanche parlare dei più poveri, ma mm-hmm, praticamente di praticamente hanno avuto un aumento del reddito solo dello 0,4%, quindi la chiamano in America la rich recovery, la ripresa dei ricchi. Poi è vero che nella media, se uno guadagna molto di più degli altri, comunque nella media si spalma tutto, ma però è una media. Nella realtà c'è una parte della popolazione. Quindi... lo stesso alla disoccupazione, tenete conto, la disoccupazione in America sta scendendo, però non scende tanto perché la gente trova più lavoro, quanto perché molta gente non lo cerca più. Il numero degli scoraggiati negli Stati Uniti, quelli che non cercano proprio più lavoro, è altissimo. Un po' come in Italia, quindi, insomma. Sì. E questo è il motivo, queste sono tutte le incognite dietro alle quali, che sono dietro anche a questa forte crescita della borsa americana, e questo è il motivo per cui si ha tanta paura di cosiddetto tapering, cioè della riduzione di questi stimoli monetari da parte della Banca Centrale Americana, che è il tema che magari affronteremo più avanti. Anche noi però, Debora, come i mercati, alterniamo periodi di stabilità a periodi di instabilità. Generalmente noi associamo il termine stabilità a una condizione di benessere, per contro siamo soliti associare alla parola instabilità un significato di malessere o di disagio. Scopriremo nel corso della trasmissione che non tutte le instabilità producono disagio, alcune sono proprio funzionali per il nostro benessere, ma direi di procedere per ordine. Professor Barbanti, abbiamo detto che l'instabilità può interessare somma e psiche, due facce della stessa medaglia che sappiamo bene che si condiziona una vicenda. Partiamo dal soma e quindi dall'aspetto motorio. Posso fare una piccola premessa? Sì. Un po' di instabilità vuol dire che il cervello funziona, cioè il rumore dei bulloni di una macchina che va di corsa. E quindi questo. Cominciamo a dire che quando c'è la calma piatta dobbiamo porci una domanda. In questi giorni a Milano, oggi si conclude il congresso della Società Italiana di Neurologia, e si è molto parlato sia degli aspetti funzionali del cervello, ma sia di come prevenire la instabilità intesa come invecchiamento, in particolare delle funzioni mentali. Ebbene, il meccanismo che sta emergendo con sempre maggiore energia è, da un lato, la cosiddetta brain reserve, cioè la riserva neuronale. Ci sono quelli che nascono con capocce, come direbbero a Roma, molto grosse, e c'è una correlazione tra il volume della testa e capacità di attenuare l'instabilità senile, intesa come instabilità di riserva mnemonica e così via. Quindi misuratevi il testone. Cioè, chi come me aveva 60 di capello militare dovrebbe stare abbastanza immune. Ma l'altra notizia molto interessante su cui gli studiosi da tempo si stanno così studiando è il fatto che esiste una riserva cognitiva, cioè un'altra maniera per non diventare instabili, ma qui alludiamo solo agli aspetti cognitivi, è quello di creare tante connessioni, essere collegati, e quindi non solo con la cultura, questa è una cosa nota, ma anche con la socialità. Quello che esce fuori con forza è che il soggetto che invecchia meglio, quindi che diventa meno instabile da vecchio, è quello che vive intensamente anche l'attività di svago, quindi non solo soloni ed eruditi, ma per certi versi anche le vite un pochino più spericolate. Esiste già questo dato, si sa per esempio che chi sviluppa il Parkinson, malattia di instabilità del sistema del movimento, è uno che nella vita aveva un carattere un pochino più esitante, meno aggressivo, poco fumatore, pochi caffè, tant'è vero che queste due sostanze sono considerate addirittura protettive. Sì. 800 24 00 24, professor Barbanti, ma abbiamo invitato i nostri ascoltatori a cercare a raccontarci le loro instabilità motorie, che non riguardano solo l'appoggio dei piedi, l'andatura un po' instabile, ma come lei ricordava anche altre parti del nostro corpo che con l'incedere non hanno nulla a che fare, ma che ci raccontano che qualcosa dentro di noi è instabile. Lei faceva riferimento alle braccia, a piccoli tic. Direi che dovremmo guardarci le mani molto spesso, c'è una grande mano nel nostro cervello, è una rappresentazione enorme all'interno della nostra testa, e noi deleghiamo alle mani gran parte del nostro carico emotivo, ma è anche vero che ci sono problemi del movimento che spesso nelle mani compaiono, ed è anche vero che ci sono tanti falsi allarmi relativamente ai problemi delle mani. Quindi diciamo agli ascoltatori: c'è qualcosa di cui voi vi accorgete, tremori, o di cui si accorgono gli altri, gesticolate troppo o troppo poco, o avete qualche tic? Questa è una prima cosa. Sì, professor Barbanti, c'è subito allora una richiesta di consulenza per lei da parte di Renato da Genova, che è il nostro primo ascoltatore, che ci chiama oggi all'800 24 00 24, nel frattempo anche al 349 238 6666. Tante testimonianze sulla propria condizione di stabilità e instabilità fra quelli che si candidano agli ascoltatori ha chiaramente il biglietto per la mostra di Andy Warhol. Renato, buongiorno. Renato? Renato, si è distratto? Niente, Renato ha chiamato. Niente, Renato è magari al mercato a comprare o il pesce o il pesto. Ma poteva darci anche possiamo anticiparla se ritieni la domanda, Nicoletta. Ha un formicolio al braccio e gambe quando si addormenta. Cosa può significare? Beh, può significare che può dormire sonni tranquilli anche se ha questi formicoli, perché i formicoli notturni di quel genere sono di solito legati a fatti compressivi e non a fatti centrali. Nel cervello conta sempre chiedere: ma è un qualcosa che nasce al centro o alla periferia? Senza nulla arrivare alla periferia è un po' meno importante. Si tratta verosimilmente di compressioni di piccoli rami nervosi legati alle posture. Il famoso tunnel carpale ne è un esempio, o anche problemi dell'arachide cervicale. Professore Barbanti, c'è però un altro genere di instabilità di cui vogliamo parlare oggi, ed è quella che ci fa dire: mi manca la terra sotto i piedi, ho la testa tra le nuvole, mi sento ovattato, come se fossi dentro una bolla. Ah sì, questa è una cosa veramente detto tanto tanto frequentemente. Qui l'instabilità riguarda non il movimento ma le sensazioni. A volte noi ci accorgiamo di sentire la testa, così come quando prendiamo una liquirizia ci accorgiamo di avere la gola. Questa è una sensitizzazione, un fenomeno legato spesso alla tensione, allo stress, oltre che dagli input periferici, e il paziente dice proprio così: ho la testa dentro la bolla dell'acquario. È un fenomeno ovviamente che deve far pensare al nostro stile di vita in primo luogo, se prendiamo pause sufficienti o se per caso al contrario ci carichiamo di eccessivi fardelli pensando per tutta la famiglia, dalla babysitter al nonno. Alla parola bolla, Moria Longo ha drizzato le antenne, perché naturalmente c'è una stretta correlazione anche fra le bolle e i mercati finanziari. Per esempio, la crisi attuale, quella che stiamo vivendo, è nata proprio dalla bolla immobiliare americana, ma ne conosciamo tante del passato. C'è stata la famosa bolla tecnologica delle 2000. Poi in una scheda vi racconteremo anche la storia un po' delle bolle, ma adesso questa Wall Street sui massimi nasconde anche una bolla dietro, una bolla della liquidità, di tutti i soldi che le banche centrali offrono al mercato? È molto probabile che la bolla non sia solo a Wall Street ma sia soprattutto sul mercato obbligazionario. Tenete conto che le obbligazioni emesse da aziende con bassa affidabilità hanno i rendimenti ai minimi storici. Vuol dire che la gente, gli investitori, comprano alti rischi per bassi rendimenti, perché non sanno più cosa comprare, hanno tanti soldi, non sanno più come investire. Sono problemi grossi. Lo so, però se parla di investitori che stanno sopra, quelli istituzionali, quelli che prendono i soldi, che beneficiano di questa grande liquidità iniettata dalle banche centrali. E per capire se è una bolla, ovviamente nessuno lo può sapere veramente, perché dipende da tantissimi fattori e molto spesso psicologici. Quando scoppia una bolla, scoppia perché improvvisamente... Io credo però che ci siano due fattori che creano le bolle. La prima è questa credenza generale nel mondo dell'economia e della finanza che ci sia qualcosa che possa crescere per sempre. Gli utili aziendali per definizione devono crescere sempre, le borse devono crescere sempre. Questo mi sembra che fisicamente sia impossibile. E secondo, la grande convinzione di tutti gli investitori che anche se adesso ci sia una bolla, io intanto prendo il treno perché corre, intanto sono sicuro di essere più intelligente degli altri, uscire dal treno. Ecco, come fa allora un piccolo risparmiatore a proteggersi dalle bolle? Come fa a tenersene lontano? Come fa ad intercettare, come dire, quel famoso momento prima che questa scoppi? Ma purtroppo le bolle scoppiano prima che nessuno lo sappia. Chi riesce effettivamente a scendere dal treno prima, solitamente lo fa per un'intuizione o per fortuna, oppure perché si accontenta magari, oppure del perché guadagno è come quello a casa, che va al casino, quando ho la mia vincitina me ne vado via, non sto a giocare oltre. Il punto, secondo me, l'unico consiglio sensato è diversificare, non puntare solo sulla borsa, non puntare solo sull'obbligazione, puntare un po' su varie cose, in modo che comunque se c'è una bolla solitamente scoppia da una parte, contagia altri mercati ma non tutti, per cui questo può essere l'unico vero sensato consiglio. Detto questo, nessuno ha la sfera di cristallo, neanche grandi soloni. A proposito di bolle, esatto, un'altra bella bolla, perché prima o poi le bolle scoppiano. Professor Barbanti, mi dà uno spunto aver sentito parlare di ottimismo, è una meraviglia. L'ottimismo è per un neurologo è una grande fortuna. Quello che succede, in realtà è una fortuna per tutti, ma quello che succede nel cervello è che si accende l'area della memoria e si spegne quella della paura. Il soggetto va a pescare un ricordo positivo del passato, se lo mette davanti agli occhi inconsapevolmente e dice: ce la posso fare. Questa è, c'è chi riesce a dosare il rischio. Esattamente quello che stanno facendo gli investitori adesso. Ma vedi, abbiamo creato una nuova cosa. La paura, esattamente. 800 24 00 24, stabilità e instabilità, e raccontateci i vostri punti fermi, ma aspettiamo le vostre domande, raccontateci i vostri segnali, i vostri sintomi, i vostri dubbi, noi siamo qui. E io invece fra un po' devo raccontarvi cosa succede sui mercati finanziari, visto che abbiamo stabili parlato... o instabili? Oggi mi pare una situazione abbastanza stabile. Dai. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Ci stabile, siamo stabilissime stamattina con i nostri ospiti che ci danno grande senso di stabilità qui all'interno degli studi di Radio 24. Però alluzzano anche un po' di instabilità, che è quel peperino che ci vuole. Esattamente. Allora, però attenzione a non finire in bolla, perché sennò qua la tragedia è dietro l'angolo. E sentite allora che cosa è successo nella storia delle bolle finanziarie. Come nasce una bolla speculativa? C'è un bene che si affaccia su un mercato e suscita grande interesse. Oppure torna improvvisamente l'interesse per un certo bene. Una sorta di euforia collettiva porta a creare vere e proprie manie. I prezzi del bene in questione iniziano a crescere in modo esponenziale, allontanandosi sempre di più dai suoi valori reali, finché la bolla esplode e ci si ritrova a non avere niente in mano. Per trovare il primissimo caso di bolla speculativa, dobbiamo tornare all'Olanda del 1600, quando si scatenò una vera e propria tulipanomania. Nella middle class si faceva a gara nel possesso degli esemplari più rari. I prezzi, in base al colore dei fiori, arrivarono a livelli insostenibili. Il bulbo più costoso arrivò a costare 1200 fiorini, a fronte di un salario annuale tra i 200 e i 400 fiorini, e con il prezzo di una casa in città che si fermava a circa 300. Ma non durò a lungo. Bolle, 800 24 00 24, e noi vediamo che cosa bolle in pentola, che cosa ci raccontano i nostri ascoltatori. Questa ci è proprio piaciuta. All'800 24 00 24. Tra l'altro, esatto, no, con una precisazione. Brava, sì, infatti ci sono gli ascoltatori, non siamo state molto chiare all'inizio, ma lo siamo adesso. Allora, mettiamo a disposizione dei nostri ascoltatori 6 biglietti per andare a vedere a Milano la mostra di Andy Warhol. Prima abbiamo però detto, scriveteci con un sms le vostre storie più belle, quelle che vi danno stabilità in termini emotivi e in termini economici. In realtà vogliamo premiare anche gli ascoltatori che ci chiamano all'800 24 00 24, e forse raccoglierei subito le storie di... Certo, anche perché dal vostro centro di stabilità il professor Barbanti può avere delle informazioni preziose, e quindi sfogatevi, raccontatevi, e identificheremo insieme al professor Barbanti un po' il vostro profilo. Paola da Macerata, buongiorno. Buongiorno a tutti. Mi spiace esporre una storia per interposta persona, ma insomma, mia figlia Elisa di 20 anni che ha... Paola, noi mamme lo facciamo sempre, parliamo sempre per qualcuno che dice mamma parla tu, salvo poi dirci perché hai parlato, ma comunque nessuno dirà a sua figlia che lei ha parlato. Paola, memoria, ce li hai piccoli, ma vedrai quello che ti aspetta. No, purtroppo non sono piccoli, sono tutte e due grandi. Mia figlia ha 20 anni, abita a Milano perché sta studiando all'università, ha problemi di instabilità sia del ritmo cardiaco, della frequenza del ritmo cardiaco, quindi passa da 60 a 90 battiti da un momento all'altro, di instabilità dal punto di vista dell'equilibrio, per cui sviene o rischia di svenire piuttosto frequentemente, ansia causata probabilmente anche da questi disturbi, anche formicolii, addormentamenti delle punte delle dita. Insomma, che bella la gioventù per professor Barbanti, sì, un po' svenevoli, innamorati, il cuore che batte, senti il cuore, poi non lo senti più, poi ti vengono le mani fredde e poi tremi. Professore. Sì, quello che ha Elisa è un sintomo molto frequente, è il sintomo che si è passati dall'eustress, che è quella cosa gattopardiana per il quale deve cambiare tutto perché non cambi nulla, cioè noi ci spostiamo d'un piede e ricreiamo un nuovo equilibrio, al vero e proprio stress. Lo stress è una modificazione costante dei nostri parametri legato a una serie di influenze ambientali per la quale non troviamo il centro di gravità permanente di cui dicevamo prima. E lo stress nasce nel cervello, morde gli altri organi e al cervello ritorna, morde o forse a volte abbaia, un batticuore, un calo pressorio, le sindromi vagali per cui si sviene, ma ecco che poi alla fine torna a essere ansiosa o insonne. Il consiglio per la signora Paola per quanto riguarda Elisa è semplicemente insegnarle a intanto a riconoscere cosa vogliono dire i sintomi. Sapere che cosa è quello che ti capita è metà del trattamento del tuo disturbo. Punti fermi, ci scrive Andrea da Bologna al 349-238-6666. Dal punto di vista del cuore, mio padre. Dal punto di vista dei denari, avere tutto sotto controllo. Professor Barbanti, abbiamo anticipato che dai punti fermi dei nostri ascoltatori lei sarebbe riuscito a tratteggiare una sorta di profilo. Poi scopriamo i per punti esempio, fermi di gli italiani amano molto la casa, quindi la stabilità data dal mattone. Forse adesso un po' meno del passato, però tradizionalmente gli italiani sono così. È indice di qualcosa? Parto dalla prima parte, e cioè dal fatto che deve tenere tutto sotto controllo. Tenere tutto sotto controllo è il lancio della stampella d'Enrico Totti, cioè è l'ultimo rimedio a cui giunge l'ansioso, perché il soggetto ansioso, il nuovo è pericolo. Come io anticipo il nuovo? Conoscendolo e quindi anticipandolo, ma di per sé questa strategia genera un po' di preoccupazioni. Per quanto riguarda la casa, insomma, noi viviamo di simboli e la casa, così come il gesto rispetto al movimento, non è un insieme di mattoni, ma è un insieme di emozioni e rappresenta la base per la felicità di tutti noi. Abbiamo Paola dalla provincia di Milano, poi Danilo dalla provincia di Alessandria e Clementina da Como. Vai Paola! Paola, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Allora, qual è la sua stabilità emotiva e la sua stabilità, come dire, materiale? Dunque, dal punto di vista dei... c'è un ritorno? Oh, allora ha una radio alta vicino a lei? No, Paola. Tutto spento. Allora Paola la richiamiamo. E sentiamo Danilo dalla provincia di Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Danilo, eccoci qua. Eccoci qua. Volevo chiedere, io sono uno sportivo, 54 anni, praticamente faccio un lavoro a 200 chilometri, genitori anziani, sì. E mi ritrovo che quando faccio sport non riesco più, cioè mi blocco, mi viene un blocco tipo psicosomatico, sono un tipo ansioso, mm-hmm. E nello stesso tempo mi sono venute delle paure tipo aereo, tipo andare con gli amici e tutto quanto. Volevo chiedere al professore gentilmente se tutto questo, so più o meno da cosa è portato, sì, ma certo. Non ho mai una risposta. È troppo stabile o ha paura dell'instabilità, professor Barbanti? Beh, direi che in questo caso c'è un po' di instabilità, in questo caso è abbastanza debole il direttore d'orchestra dei nostri visceri. C'è questo benedetto sistema nervoso vegetativo che io chiamo di solito il ministro degli interni, oggi lo chiamerò magari come ministro dei rapporti con il Parlamento, che è quello che traduce in fisico lo stato d'animo, quello che è mediato dal nostro sistema limbico, il sistema delle nostre emozioni, della realtà che ci circonda, ma anche del nostro passato. Chissà durante questa giornata così intensa quante cose che fa vanno anche a pescare all'interno del sistema limbico vecchi ricordi, vecchie emozioni non sempre positive. E purtroppo, bisogna dire a Danilo, in tutti noi, le memorie del dolore e dei dispiaceri sono più forti di quelle delle emozioni. Questo è finalisticamente spiegabile. Il Padre Eterno ci ha creato per evitare di tornare nell'errore, nel tornare nel dolore. Quindi direi che il disturbo è abbastanza semplice, non è una cosa grave, come al solito, se persiste, parlare col medico. Allora, volevo ricordare, c'era Fiorella che è molto carino nel messaggio che scrive perché mette insieme assolutamente i due aspetti. Allora, la stabilità emotiva, le braccia del mio nipotino intorno al collo, Fiorella la capisco benissimo, e il colore verde sulle valutazioni dei titoli azionari quando apro la pagina online. Quindi Moria, come dire, anche lo stabilimento, come essere stabili di fronte ad una, come dire, condizione positiva del proprio investimento, è ovvio che ti mette di buon umore, come potrebbe essere diversamente? Sì, che ne pensi? Fuori dubbio, l'importante non è tanto avere il colore verde quanto essere consapevole di aver fatto investimenti calibrati con il proprio profilo. Esatto, è che qualche volta possono anche subire delle battute d'arresto e scendere. Elisa invece ci scrive: la cosa migliore è investire in diamanti, insomma la concretezza della pietra preziosa, perché dice per quanto possano scendere non sarà mai un vero crollo. Dice anche l'oro, in realtà l'oro ultimamente è andato un po' in senso contrario. Sì, questi beni si muovono, i beni rifugio si muovono come tutti i mercati, salgono e scendono. In un momento come questo di euforia, di ottimismo, i beni rifugio diventano meno appetibili. Per questo scende l'oro, ma come stanno salendo i rendimenti dei Bund, i famosi Bund tedeschi, che sono il porto sicuro per antonomasia, adesso vengono comprati meno. Quindi anche il bene rifugio può diventare un problema nel momento di euforia o comunque di ottimismo. Occhio alle esagerazioni. Nicoletta, forse sono le 11.44. Sì. Sono le 11.44. Il professor Barbanti, ho visto che è rimasto molto stupito dal messaggio della nostra ascoltatrice Fiorella quando parlava di braccia del mio nipotino intorno al collo. Questo abbraccio, che cosa accende nella mente di un neurologo? Quanta simbologia, ma anche quanta chimica c'è lì sotto, perché l'abbraccio intorno al collo, che poi è l'abbraccio che la mamma fa al bambino quando è più piccolo e lo allatta, è tutto mediato dall'ossitocina, che è l'ormone dell'allattamento, ma è l'ormone dell'innamoramento, è quello che ci fa necessariamente strisciare, coccolare, toccare le persone amate. Quindi è un bellissimo quadro che riflette tanto l'emotività quanto la neurochimica. Questo vale per le nonne e per le zie, naturalmente, professor Barbanti. Come al solito. Anche per gli innamorati. Certo. 800 24 00 24, professor Barbanti, avremo bisogno di lei ancora, perché molti dei nostri ascoltatori alla parola tremore, formicolio, sensazione di addormentamento si sono scatenati, e quindi daremo naturalmente voce alle loro domande all'800 24 00 24, ma parleremo anche di instabilità. Quando si dice una persona lunatica, sono generalmente quelle persone che nel corso della giornata cambiano rapidamente umore. Cercheremo di capire perché. Adesso andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Voilà! Cuore e denari. Sono un po' alterato in questo momento, dovrei essere in ufficio fra 8 minuti. Un po' alterato. Porca miseria, che cavolo fai? Ti devi un po' disalterare. Il mio capo mi fa nero se facciamo tardi, quindi, per favore. Noi procederemo quando tu sarai centrato. Ma io sono centrato, centrato, centratissimo. Su, dai, che c'è una fila di 1 chilometro, muoviamoci, pazzoide. Adesso cantiamo una canzone. No, non mi va di cantare una canzone, io voglio andare... Any girl who is in me today. La la la la la la la la la la. Instabile è un modo gentile per definire le persone un po' lunatiche, quelle che cambiano rapidamente umore. Per fortuna Deborah è stabilissima, arriva di buon umore alla mattina e se ne va di buon umore alla sera. Chissà cosa succede poi quando me ne sono andata a casa. Scoppio là probabilmente, non è così. Però è vero che ciascuno di noi, anche Deborah, nel corso della giornata ha delle fisiologiche variazioni d'umore a seconda dei momenti. Magari ci alziamo di buon umore, ci sentiamo forti e gagliardi, e poi per un non nulla ci abbattiamo. A te non succede niente? Ah, ecco. Io sono veramente nelle montagne russe. Il nostro umore scende, sale e scende con un ritmo vertiginoso. Professor Barbanti, anche questa instabilità, e anche questa si può spiegare con la rete, l'azione dei neurotrasmettitori? Sì, pensate che cosa strana. Noi ci sentiamo stabili quando i nostri neurotrasmettitori oscillano. E per esempio noi siamo sensibilissimi ai fattori fisici e chimici, la luce e la notte fondamentali per poter avere un umore stabile, e poi i neurotrasmettitori ognuno ha il suo orario. Alle 8 comincia, non è un neurotrasmettitore, cortisolo, un picco di serotonina in un certo momento della giornata, la noradrenalina in un altro, la dopamina in un altro. Bene, esattamente in questo ritmato comparire, però molto regolato dei tempi, dei nostri neurotrasmettitori, noi ci sentiamo stabili. Cosa succede nel soggetto invece che, come dicevamo nell'introduzione, va dalle stelle alle stalle andate e ritorno in 6 ore, adesso stringiamo ancora intervallo di tempo, succede che questa pulsatilità di ritmi non c'è più. La colpa di chi è? Beh, insomma, la colpa a volte... Di Maria Longo. Ah, sì, poverino. Delle questioni che lui non tratta. Non credevo di avere tali responsabilità, ora. Ma... Delle questioni che lui tratta, senza dubbio, in parte anche della biologia. E in parte, lo dico sempre, ma veramente le cose difficili si risolvono con le cose facili. Il fatto che noi ci allontaniamo non dai vecchi costumi, noi non ascoltiamo più i nostri ritmi. Ho fame, no, adesso gioco a squash, se si usa ancora, adesso un panino, un attimo di corsa, ho sonno, beh, adesso un attimo, c'ho una cena di lavoro. Alla fine i nostri ritmi si perdono nella loro ritmicità, diventano meno instabili come in realtà erano miracolosamente però prima, e diventiamo instabili noi. Allora, abbiamo ripescato Paola dalla provincia di Milano. Dai, sì, Paola, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci sente meglio adesso? Sì, adesso è perfetto. Allora, la sua stabilità finanziaria e la sua stabilità emotiva, quali sono, come dire, i punti cardine della sua vita? Per quanto attiene la stabilità per i denari, credo che soprattutto nel momento moderno si possa dire che la proprietà della propria abitazione sia un fattore di stabilità. Quindi l'IMU sì, IMU no, a lei è disinteressata, sì, diciamo, anche alla tassazione. Perché ad ogni modo si elimina l'affitto. Certo. No? E si è sicuri di avere un tetto sulla testa. Ecco, sia per se stessi che per i propri figli, è ovvio. Per quanto riguarda invece il cuore, credo che sia molto importante l'equilibrio affettivo all'interno del proprio nucleo familiare e soprattutto la salute del nucleo familiare e un lavoro gratificante. Voglio dire, Paola, devo dire che punti fermi ne ha tante, esatto. E ha messo tutti gli ingredienti di questa ricetta. No, volevo fare, a proposito dell'osservazione fatta da Paola sul tema della proprietà della casa, un'osservazione con Moria Longo sul tema dei tassi di interesse. Vi spiego questa relazione. Se gli italiani hanno potuto comprarsi molte case negli ultimi anni è perché naturalmente le banche tempi addietro erogavano molto credito e ci sono stati dei momenti in cui i tassi di interesse sono stati molto favorevoli, quindi si potevano sottoscrivere mutui con grande facilità. Adesso questa situazione è ritornata, le banche sono non tanto generose ma i tassi sono bassi. Giovedì si riunisce la Banca Centrale Europea, forse potrebbe essere rifatto un altro ritocchino ai tassi di interesse verso il... Ho fatto tutta questa relazione, però comunque è importante anche monitorare i tassi di interesse praticati dalla Banca Centrale Europea. Sì, assolutamente. Forse è possibile che i tassi di interesse vengano abbassati, anche se non è così sicuro, perché la Germania è notoriamente contraria. Il motivo per cui potrebbero essere abbassati è perché l'inflazione sta calando. L'ultimo dato, se non ricordo male, è 0,7% media europea. Quindi con l'inflazione che cala bisogna stimolare l'economia affinché la gente torni a consumare e quindi l'inflazione torni a salire, perché la Banca Centrale Europea ha un obiettivo di mantenere l'inflazione intorno o poco sotto il 2%, quindi 0,7 siamo abbondantemente sotto. Il problema è che i tedeschi hanno un'ossessione per l'inflazione, che è un'ossessione storica, risale alla Repubblica di Weimar e a tutti i loro fantasmi del passato, ed è difficile, tanti sostengono che forse la Banca Centrale Europea non farà questo taglio ai tassi adesso, potrebbe farlo comunque nei prossimi mesi. È sicuramente nell'aria, tanti economisti lo prevedono, tanti no, è più un gioco politico in realtà che economico in senso stretto. Mario Draghi ha dato grande stabilità all'Eurozona nell'ultimo anno e mezzo. Sì, la data della stabilità, il centro diciamo di gravità permanente è sicuramente il 24 luglio del 2012, che è il giorno in cui Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha parlato e ha detto una cosa che ha completamente cambiato l'umore di tutti, cioè ha fatto capire che l'euro, che fino a quel momento era considerato una valuta instabile, altamente instabile, si parlava di uscita della Grecia dell'euro, si parlava degli altri paesi che uscissero, della spezzatino dell'euro, ecco, lui ha detto la Banca Centrale Europea farà qualunque cosa necessaria per salvare l'euro. Quindi, e vi assicuro che sarà abbastanza. Queste parole hanno letteralmente cambiato l'umore di tutti, perché sono tornati i flussi di ingresso di capitali, gli investitori sono tornati in Europa e da allora difatti le borse europee sono salite, anche quella di Milano, gli spread famosi, no, il nostro hanno indice, ripreso a scendere. Sono scesi tantissimo. Perché? Perché se uno considera l'euro instabile, è ovvio che nessuno vorrà mai mettere i propri risparmi, i propri investimenti in un conto corrente oppure in un titolo di Stato italiano, perché è sempre il timore che un giorno ti venga restituito in lire. E le lire verosimilmente saranno, se mai tornassero, più deboli del marco. Per cui tutti i flussi andavano in Germania, perché lì quantomeno sapevi che ti venivano restituiti in marchi. Ecco, avere spezzato questa credenza generale e avere detto che la Banca Centrale Europea farà di tutto per salvare l'euro ha cambiato completamente i comportamenti. Ecco, insomma, Mario Draghi il simbolo della stabilità europea in questo momento. Cuore e denari. Eccoci, siamo tornate, contenti, felici e rilassate. Mettetevi comodi anche voi perché è tempo di dare spazio alle vostre telefonate. 800 24 00 24, mettetevi comodi. E a proposito di comodità e di rilassamento, professor Barbanti, ho subito un sms per lei, ce lo manda Maria Grazia. Ogni volta che mi rilasso sento alcune fibre muscolari che guizzano in tutto il corpo. È un problema neurologico, ci scrive. È un aspetto neurologico. Molte volte i soggetti che hanno quei sintomi vanno su internet e tornano con le diagnosi più disastrose del mondo. In realtà, dopo, quando si rilassa, evidentemente la nostra ascoltatrice si rilassa da una condizione precedente di tensione eccessiva. E quindi questi guizzi muscolari, queste fascicolazioni che si vedono sotto la pelle, sono, quando siano confinate, un fenomeno benigno. Possono comparire nello sportivo, dopo una corsa o dopo una giornata intensa anche in chi lo sport non lo pratichi. Diversa la situazione se io ho guizzi in tutto il corpo, ma come al solito la misura in medicina è un elemento fondamentale per distinguere la fisiologia dalla malattia. Vogliamo sentire alcuni ascoltatori o dobbiamo fare uno stacchetto? Stacchettino! Sì, c'è l'obbligo! Ascoltate! Per il mese della digestione, Uliveto a soli 39 centesimi! Prezzo consigliato! Vi presenta Essere e Benessere. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quella di figli. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Vabbè, c'è spericolatezza e spericolatezza, magari ognuno la interpreta a suo modo. Per qualcuno anche magari fare qualcosa di così particolare nel corso di una giornata sempre in bilico. Giuseppe da Milano, un altro ascoltatore all'800240024. Intanto continuate anche con le vostre testimonianze sul tema della stabilità emotiva e quella materiale, perché poi, come sapete, abbiamo per voi i biglietti della mostra di Andy Warhol. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno. E niente, a livello di stabilità emotiva, praticamente dopo alcune delusioni amorose, direi che bisogna affidarsi proprio su se stessi, cercare di non fumare, star bene, non bere troppo, così. Mentre invece dal punto di vista materiale, penso che se uno si abitua, diciamo, a spendere meno di quello che sono le sue possibilità, comunque non si troverà mai male. Giuseppe è un po' giù, però mi raccomando, professor Barbanti, dobbiamo mandargli i biglietti per la mostra di Andy Warhol, visto che è anche qua, per cui almeno magari si risolleva il morale con tutti quei colori. L'amore incontra nuovamente l'amore. Hai visto, non mai si sa. Professor Barbanti, lei che dice? Il sintomo di massima salute per un medico, per un neurologo in particolare, è il muoversi, ma non il muoversi solo ovviamente con le gambe, con il nostro corpo, ma il muoversi con la mente. Noi dobbiamo pensare che la salute è l'andare in bicicletta, cioè il non essere mai presentificati, mai fermi in un momento. Noi stiamo psicologicamente bene se abbiamo un piede nel passato e l'altro nel futuro, e non stiamo fermi. Un'ascoltatrice diceva, oltre la stabilità, la casa, gli affetti, il lavoro è questo, è movimento e è salute, movimento nel senso di prospettiva, affettività, speranza e ottimismo, e solo così la salute neurologica ci segue. Ma ce l'ha servita proprio su un piatto d'argento. Movimento, professor Barbanti, i piedi che sono sul terreno ma sembrano un po' instabili. Molti ascoltatori, riassumo, hanno un po' l'impressione di essere instabili, come quando uno scende dalla barca, va a terra e ha quello che viene chiamato mal di terra. Ondeggi ancora. Proverò a spiegarlo con un esempio molto semplice. Il movimento e le emozioni sono sulla superficie del cervello ben distanti. Poi però c'è tutto un parlamentare sotterraneo, c'è una parte profonda del cervello di sostanza grigia, si chiama nucleo della base, e lì si mettono d'accordo. Le emozioni e il movimento si sposano. Questo spiega come mai, quando da queste larghe intese venga il segno negativo, il soggetto tenda a sentirsi sbandare, in realtà non sbanda, ma per gli sportivi a volte invece la carica emotiva sul movimento dà un effetto opposto. Pensate a Zibi Boniek, che veniva chiamato dall'avvocato Agnelli il mio grande amore, mi è sempre piaciuto tantissimo, veniva chiamato bello di notte perché giocava benissimo solo le partite di Champions in cui era caricato. Quindi insomma queste larghe intese sotterranee dipende a ridagli con le larghe intese, professor Barbanti, insomma il cervello le ha inventate prima delle prima dei nostri relazioni, governatori, che relazioni governanti che facciamo tra la medicina, la finanza e adesso anche la politica. Nicoletta, qua dovremmo chiamare Alessandro Milan anche nella trasmissione con noi, lo faremo in una puntata. Okay. La lascio concludere, mi scusi professor Barbanti. No, dicevo quindi che insomma il motivo per il quale a volte ci sentiamo in barca è semplicemente perché non ce ne accorgiamo, c'è uno sgambetto fatto dalla nostra emotività e dalle emotività che abbiamo in memoria. Ricordiamo che noi memorizziamo terribilmente le emozioni e rende il nostro incedere più faticoso, meno automatizzato. Quando noi ci accorgiamo di camminare, noi sentiamo sbandare. In realtà chi ci vede, ci vede perfettamente normali. Mi vedi normale tu? Normalissima, perché mi sto perdendo qualcosa, ti tremano un po' le gambe, le mani. Mi tremano un po' le gambe. Roberto, buongiorno da Torino. Buongiorno. Roberto. Allora io avrei questo problema. Sì, a me mi era diagnosticata una sindrome da gambe senza riposo, da riposo, o la cosiddetta GLS. Cioè io qua, se devo stare in piedi, appena mi metto nel letto, peso, niente, mi devo alzare, non riesco assolutamente a dormire. Perché arriva di notte, vero? Sì, sì. Questo formicolio. O la sera sul divano, magari. Camminare, però niente. Quindi mi hanno diagnosticato questa sindrome, quindi non so assolutamente cosa fare. Quindi vorrei un consiglio dal dottore. Un formicolio che ti prende quando ti sdrai, ti allunghi, Deborah diceva, anche sul divano. Ma non è una sensazione strana, troppo strana. La mia amica dice, mi prendi il nervoso sulle gambe. Si può nominare un marchio, tanto è famoso in tutto il mondo. Un paziente diceva, mi sento la Coca-Cola sotto la pelle. Quello che è la sindrome delle gambe senza riposo riguarda a volte addirittura il tronco, addirittura le braccia e addirittura il viso. Cioè lo stare fermo determina questo fastidio. Cosa deve fare Roberto? Una sola cosa, non preoccuparsi, perché la conoscevano i latini, che la chiamavano anxietas tibiarum, l'ansia delle tibie, cioè le gambe che non stanno ferme. Sappia però Roberto che quando il disturbo non sia sporadico, basta aumentare i livelli di dopamina, uno dei neurotrasmettitori che media il rischio, l'emozione, il coraggio, ma certamente il movimento, per avere l'abolizione di questo disturbo. In Italia siamo tra i più grandi esperti di sonno in ambito europeo e forse anche mondiale, quindi un buon centro lo potrà aiutare. Ritorniamo ai temi della finanza, perché chiaramente il nostro cuore, il nostro essere è molto stabile. Se sono stabili le nostre finanze, sentiamo allora quali sono i temi posti dai nostri ascoltatori, e prendiamo chiaramente l'anconetano. Io me ne prendo uno al giorno. Sergio, buongiorno. Un anconetano al giorno. Eccoci qua, ci dica. Buongiorno. Sì, volevo aggiungere questo riguardo all'acquisto di o meno di una casa. Sì. Che se un suggerimento che mi permetto di dare, se l'acquisto di una casa prevede un mutuo per 20 anni, è una scelta che uno può fare perché limita i suoi prossimi 20 anni, ma se per caso prevede un mutuo di 40 anni, la casa rischia di diventare una prigione, ovvero di rendere immutabile quella persona anche quando magari la vita gli... occorrerebbe fare in modo che la sua vita mutasse, la casa sempre, diventa certo, una questo prigione, peso un posto sulle... che lo blocca, certo. Non un posto che lo può lasciare libero. Sergio, grazie. Allora, c'è da dire che le banche hanno avuto la tentazione solo qualche anno fa di distribuire questi mutui a 40 anni, poi hanno fatto subito marcia indietro perché effettivamente sono impegni estremamente onerosi. Però non è del tutto non pertinente, insomma, l'osservazione del nostro ascoltatore. Moria Lungo, che cosa ne pensi? Ma... eppure, insomma, la casa è l'obiettivo priorità. Per gli americani lo è stato. No, ma anche per tanti italiani. Sì. No, ma io credo che la casa, se si intende la prima casa è un qualcosa che non può essere considerato un investimento, è il tetto su cui stiamo, per cui se si guarda la casa come un puro mero investimento, allora tanti economisti sostengono che la casa non sia conveniente, perché considerando le tasse, considerando la difficoltà poi di venderla o affittarla. Affittarla e tutte le incertezze, è molto meglio comprarsi un BTP. Tanti la pensano così, ma la casa non è un BTP, la casa è un qualcosa su cui uno sta, per cui è una scelta di vita, è una scelta familiare, per cui è assolutamente una cosa soggettiva. Qualcuno non ha nulla a che fare, secondo me, con l'investimento. Una parte del prezzo lo fa l'acquirente, nel senso che se la casa dei tuoi sogni è quella che hai scelto, costa magari un po' più dei livelli di mercato, di quello che il mercato dice, un po' di prezzo insomma lo puoi fare anche tu. Andiamo a sentire il professor Barbanti, l'è appassionata Barbanti, il tema della casa? È un neurologo appassionato e io lo adoro. Mi sì, io sono appassionato di case che non riesco a comprare perché non ho i soldi, ma insomma lei abita a Roma, dove c'è veramente un pavimento sui prezzi che non si riesce ad abbattere. Sottolineo però le mie origini cervesi. No, ma a parte questo, volevo dire una cosa importantissima della casa, che è un bene che neurologicamente, emotivamente godi in itinere. Nella classifica degli eventi stressanti, il cambio di casa sta sotto il lutto. Il trasloco. Quindi attenzione, quando noi abbiamo una casa, investiamo in salute mentale. Adesso chi ne ha 20 è un altro discorso. Però c'è questo non... perché dovrebbe avere tante teste. Sì, nel senso, anche tante tasche, però è fondamentale questo ruolo di pacificazione interiore che avere una casa, magari la casa di villeggiatura, per chi se lo possa permettere. Sentiamo Libero da Roma, o l'ascoltatrice? E mi raccomando, no, penserei all'ascoltatrice. Se volentieri. Perché noi diamo precedenza. Si chiama come la mia mamma e quindi la prendiamo. Sicuramente 800 24 00 24. Avete ancora tempo di intervenire a Cuore Denari per raccontarci qual è il vostro punto fermo, quello che vi dà stabilità per il cuore e quello che vi dà stabilità per i denari. Soprattutto questa è una sfida che vi lanciamo per superare la nostra famosa barriera rosa, che salutiamo insieme a tutte le altre ragazze, certo, che non nominiamo mai, è nostra mancanza, però. Quindi c'è un omaggio della libreria di Cuore Denari a chi l'ultimo ascoltatore che sfonda la barriera rosa all'800 24 00 24. Quindi datevi da fare. Intanto sentiamo l'omonima della mamma di Deborah. Giuseppina, buongiorno. Barletta, buongiorno. Andrea Trani, eccoci qua. Buongiorno, io volevo fare una domanda al professore, perché è a proposito di salute. Io ho 54 anni. Brava. E grazie. Teniamoci su. Dire, sono sempre stata una persona iperattiva, cioè una di quelle che non si stanca mai, dalla mattina alla sera, anche fino alla notte è sempre attiva. Adesso è un annetto che mi ritrovo addosso una stanchezza che non riesco ad accettare neanch'io. Se mi siedo mi addormento. Brava, che forse ha bisogno di riposarsi. Noi spingiamo troppo l'acceleratore, ma professor Barbanti, a lei la parola. Direi tre cose. Pensiamo a ormoni, figli e ruolo. In quell'età possono essere variati o variare grosso modo proprio in quegli anni gli ormoni femminili. I figli in quell'età possono essere emancipati, essere usciti dal nostro nucleo familiare. Il ruolo conseguentemente cambia. Tutto questo ci rende meno energici, ma anche perché serviamo apparentemente meno. Nel momento in cui dobbiamo invece cambiare completamente la nostra posizione, diventare consiglieri più che giocatori, allenatori in campo, commissari tecnici all'esterno. E però, quando si ha sonno durante la giornata, e qui parlo ancora da neurologo, attenzione a come dormiamo di notte. La prima causa di sonnolenza durante il giorno non sono farmaci, non è stanchezza, ma è un finto sonno ristoratore o addirittura l'insonnia. Libero da Roma invece, come dire, fa girare il coltello in un'altra piaga, almeno per noi, che è quella della stabilissima Germania. Libero, buongiorno, ritorniamo un po' ai temi finanziari. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ci buongiorno, dica. Grazie per avermi chiamato. Grazie a lei. Niente, io volevo È un bel soltanto... nome, Libero. È vero. No, si usa più tanto, vero, Libero? Libero di nome di fatto? Sì. No, Libero di nome, di fatto sono coniugato bene. No, vabbè, non intendevamo qui. Ma Libero lei... di spirito, di cuore. Fantastico, non... fantastico. Subito, ha pensato che lo corteggiassi, Nicoletta, hai visto? Subito lui è, però il pensierino ce l'ha fatto. All'inese, dai. Libero, buongiorno. Buongiorno, ci dica, se l'ho salutata 18 volte. Ecco. Libero impegnato, dai. Allora, no, io volevo dire semplicemente questo, una cosa banalissima, che almeno per quanto, però sul costo del denaro, cioè il governatore Draghi della BCE a un certo punto sta decidendo di abbatterlo, no? Almeno leggermente. La Germania si sta, sembra che nella grande coalizzandosi con il Partito Socialdemocratico, non gradisca molto questa operazione, però però a questo punto noi siamo tutti costretti come europei a seguire prevalentemente le indicazioni della Germania. E perché non si fa una costituente europea politica? Mamma mia, Libero, che progettone Libero che ha. Allora, guardi, se ne parla, ma dai tempi di Adenauer se ne parla. Un po' di tentazione ce l'abbiamo di opporci a questa austerità tedesca. Anche la Francia qualche volta si è messa un po' di traverso ai progetti della Merkel. Peraltro, tanto bravi e bravi, hanno fatto le elezioni e ancora un governo non ce l'hanno. Non ce l'hanno, ma posso, se mi permette di aggiungere, loro fanno prendono dei provvedimenti per la loro ovviamente popolazione, che sono privilegiati rispetto alle altre nazioni. Libero, vado a Moria Lungo. Allora, modello di stabilità la Germania, Moria? È così modello? La Germania lo è adesso. Ricordiamo che l'economia va a cicli e non lo era prima della crisi. si parla di cicli di stabilità. Prima della crisi, prima del 2007, negli anni passati, la Germania era il grande malato d'Europa, per cui la lotteria gira un po' per tutti. Però diciamo che non è sempre vero che la Germania ce l'ha vinta. Per esempio, quantomeno con la Banca Centrale Europea, le ultime grandi manovre fatte da Mario Draghi, per esempio quella che si chiama LTRO, cioè questo prestito da 1.000 miliardi fatto tra il 2011 e il 2012, la Banca Centrale Europea ha prestato 1.000 miliardi di euro alle banche, in quello al tasso dell'1%, in quello la Germania era assolutamente contraria, tant'è vero che votò contro, però fu scavalcata dalla maggioranza, per cui diciamo che non è che sempre ce l'ha vinta. È vero che essendo il paese più grande, quindi il primo tra virgolette azionista dell'Unione Europea, ed essendo il paese più forte economicamente, è ovvio che la sua voce purtroppo pesa un po' più. È importante. Allora Nicoletta, sono le 12:25. Dobbiamo... Aspettiamo l'ascoltatore che supera la barriera rosa, esatto. L'800240024. Nel frattempo dobbiamo salutare e nominare, citare gli ascoltatori a cui ieri abbiamo deciso di mandare i biglietti per la mostra di Andy Warhol. Ascoltatori che in tantissimi sono stati, ci hanno inviato le foto più belle sull'autunno. Li citiamo. Allora il premio spontaneità va a Monica Teghillo. Per il messaggio di salute abbiamo scelto Dianora Boninelli. Premio Natura, Leda Vignocchi. Premio Colori, mi piace questa parte qua, Daniela Loropiana. Per il premio Quantità e Qualità, perché ce ne ha mandate una marea, Marie Cristina Giuliano. Premio Autunno in Città e Ciro di Ceccio. Qua abbiamo anche stabilito delle categorie, quindi veramente non sappiamo più che cosa fare. Ci voglio vedere cosa ci inventiamo per oggi. Siamo divertiti a fare queste categorie, abbiamo fatto anche un esercizio per il nostro cervello. Il professor Barbanti ci deve dare un 10 lode. Professor Barbanti, direi 10 lode con pubblicazione della tesi. Perché ci siamo misurati la testa, abbiamo già il testone. Ce l'ho. Ma se poi alleniamo tutte e due, avremo. Ma se poi ci alleniamo con un po' di creatività, che è figlia anche dell'instabilità, perché l'instabilità aguzza l'ingegno. Assolutamente. E allora, ultimo messaggio invece dai mercati: attenzione a questa grande stabilità sui mercati, soprattutto su quelli che stanno crescendo stabilmente da molto tempo, perché le bolle Moria sono sempre dietro l'angolo. Purtroppo non si sa mai quando scoppia. Esatto, che non si dica che non l'avevamo detto tra qualche tempo. L'ascoltatore della barriera rosa non si è presentato. No, allora magari possiamo attribuire questo riconoscimento al Libero da Roma, visto che lo abbiamo tanto. Dai, così. Libero occupato, coccolato. un libro di Cuore e Denari. Grazie, allora grazie a Marco Lombardo, Laura Vanossi che è tornata dopo qualche giorno di distaccamento da noi, a Carmelo Lauricella per l'assistenza in regia. Ringraziamo Maria Longo, il professor Piero Barbanti. Noi torniamo domani sempre alle 11. Per voi, anzi, se per voi dobbiamo essere precisi, io torno anche stasera a Focus Economia, pazienza, aspettatela e abbracciatela. A buona giornata. Cuore e Denari.